voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Giacinto Callipo, radici di impresa da oltre 100 anni nelle tonnare di Pizzo Calabro. Di Anna Marino. Siamo a Pizzo da 103 anni, siamo legatissimi alla nostra terra e non potrei vivere senza, non abbiamo mai pensato di abbandonarla, anzi mio padre dopo un triste evento ha detto io resto in Calabria, non faccio come altri imprenditori amici che delocalizzano, spostano le aziende, io resto in Calabria. Questa frase ha dato anche il nome ad una sua associazione che è tuttora attiva, che lo ha anche portato a presentarsi alle elezioni regionali 4 anni fa, a fare un'ottima figura ma non valida per essere seduto ai posti di comando. Il mare va a correre in pineta quanto più possibile, non mi è molto possibile, almeno una volta a settimana c'è una bellissima pineta che costeggia la spiaggia di Pizzo e lì guardo il mare. Terra e mare di Pizzo Calabro e di tutta la regione sono le radici che dal 1913 rendono salda questa azienda italiana, fondata da Giacinto Callipo nella provincia di Vibo Valentia e che da oltre un secolo cresce in questo lembo di terra affacciato direttamente sul pescoso golfo di Santa Eufemia, sulla costa tirrenica calabrese. Qui, dall'origine, si praticava la pesca del tonno, che è rimasta il cuore dell'attività di Callipo Group, oltre 54 milioni di fatturato e 350 dipendenti. Azienda tra le prime in Italia a inscatolare il pregiato tonno del Mediterraneo, pescato con il sistema delle tonnare fisse. E anche la famiglia di imprenditori che la guida ha da sempre deciso di rimanere in Calabria, come racconta Filippo Callipo, classe 1984, quinta generazione, ricordando le origini dell'impresa che opera nel mercato del tonno e delle conserve ittiche, fondata dal suo trisavolo. Pizzo era una delle tonnare più importanti nel Mediterraneo, quindi tra la Calabria e la Sicilia. La pesca del tonno era concentrata nei periodi di passaggio del tonno, che seguono ogni anno la stessa rotta migratoria. Quindi maggio-giugno era il periodo di pesca, venivano pescati questi pesci con le tonnare fisse. Pizzo è proprio a metà del Golfo di Santa Eufemia. Il tonno fresco veniva consumato, doveva essere consumato da lì a poco, però il tonno durava solo una settimana, 2 settimane massimo di pesca, quindi durante tutto il resto dell'anno si faceva un po' la fame. Quindi l'idea è stata quella di conservare, di provare a conservare con i metodi, con le tecniche a disposizione dei primi anni del Novecento il tonno, e così veniva messo sotto sale. Questa era la prima tecnica di conservazione, così da poter allungare la disponibilità di questa preziosa risorsa più mesi possibile. L'azienda è oggi guidata dal cavaliere del lavoro Filippo Callipo, che rappresenta la quarta generazione della famiglia e che in oltre 30 anni di gestione ha portato il marchio Callipo a diventare un gruppo societario di 6 aziende. Nel 1926 l'azienda ottenne il brevetto di fornitore ufficiale della Real Casa, a testimonianza dell'attenzione verso la qualità totale, e quel principio è vivo ancora oggi. Mio padre racconta del rapporto con suo padre e di suo nonno, ma la frase che insomma segna la nostra storia e il nostro cammino è la qualità innanzitutto. Questa era la frase del fondatore, quindi Giacinto primo, e io sono Giacinto terzo, ancora ce l'ho ben inculcata, e molte decisioni aziendali vengono prese con questa frase ben in mente. La qualità è la prima cosa, perché per noi qualità vuol dire qualità verso i fornitori, quindi nel rispetto delle condizioni pattuite, a parte che delle persone, dei nostri collaboratori. Qualità del prodotto, vabbè, quello era insomma la prima cosa. Tradizione di famiglia è anche l'avvicendarsi degli stessi nomi, generazione dopo generazione. Ma a parte questa curiosità, anche l'organizzazione aziendale, oltre alla capacità di inventare e di innovare, sono punti chiave per la holding Callipo Group SRL. Parte da qui la rete che si occupa di fornire servizi e consulenza alle 5 società controllate che operano nei mercati del turismo, dello sport e della produzione di gelato. E la svolta è arrivata con un'idea. Il grosso, diciamo, salto occupazionale, quindi anche di fatturato, avviene nei primi anni 90, quindi sotto la guida di mio padre. Mio padre ha avuto l'intuizione di mettere quel tonno, che fino all'epoca era stato sempre in scatola, era il classico imballaggio del tonno, di metterlo in vetro. Filetti di tonno di prima scelta in vaso di vetro, perché voleva che il consumatore vedesse cosa stava per acquistare, una qualità innanzitutto alla vista. Con gli occhi di primo impatto era convinto che il consumatore a scaffale ci avrebbe scelto. La diversificazione è stata un'altra innovazione. Attività nate dalla passione del padre di Giacinto, ma anche per valorizzare il territorio e creare posti di lavoro. Le aziende del gruppo occupano nel complesso circa 350 dipendenti e l'ampliamento è nato proprio in piena crisi. Il gruppo Callive è composto da 5 aziende. La storica è Giacinto Callive Conserva Alimentare S.p.A. che produce il tonno. Nel 2008 mio padre ha realizzato un sogno nel cassetto, cioè quello di avviare un'attività di produzione di gelato. Pizzo, oltre che per il tonno, è famosa per i maestri gelatieri. Quindi il tartufo di Pizzo è il prodotto principe di questa antica tradizione. Mio padre, da goloso da un lato e da imprenditore dall'altro, ha sempre pensato di voler lanciare tartufo di Pizzo in Italia e nel mondo, e quindi nel 2008 è stato possibile una gamma completa sia per i supermercati che per la ristorazione, per dare lustro ad un prodotto di pizza e portarlo per il mondo e comunque creare dei posti di lavoro. E un'altra attività che si è aggiunta, sempre è stata avviata nel 2008, è un'attività turistica. Abbiamo costruito, aperto e tuttora lo gestiamo direttamente, un country resort a 4 stelle, il Popilia Country Resort, sempre anche questo sulla collina di Pizzo. Volevamo condividere questo posto incantevole con il resto, insomma, del mondo, e quindi nel 2008 è stato un anno di, nonostante la crisi imperversava, noi abbiamo avviato queste due nuove attività. Negli anni è aumentato l'export, ora all'11%, e i principali mercati sono Canada, Stati Uniti e Australia. Una credibilità conquistata anche attraverso le certificazioni internazionali. Ma Callipo effettua la lavorazione in tutte le sue fasi esclusivamente in Italia, nel proprio stabilimento di Maierato, con una superficie di circa 34.000 metri quadrati. Ha una produzione di circa 5.200 tonnellate all'anno e al giorno circa 300.000 scatole e 35.000 vasetti di vetro. Giacinto Callipo spiega con quali controlli viene lavorato il tonno intero e come lavora la sezione di ricerca e sviluppo, che fa venire l'acquolina in bocca. Abbiamo tutto un protocollo di controlli qualità sin dall'arrivo della materia prima del tonno, che nel nostro stabilimento arriva surgelato. Surgelato intero, la lavorazione avviene interamente nel nostro stabilimento, sin da lì fino all'uscita dal magazzino, quindi quando viene evaso l'ordine di vendita, abbiamo passo dopo passo tantissimi controlli dal nostro personale di controllo qualità. Impieghiamo 5 persone solo sul controllo qualità, quindi le temperature, il grado di umidità, i sistemi di pulizia, sul peso, l'inquinamento da corpi estranei, insomma tutto un protocollo di qualità stabilito nel nostro manuale. Poi ci sta una parte di ricerca e sviluppo, che è quella che più appassiona me, per lanciare i nuovi prodotti. Siamo entrati nel segmento delle marmellate composte, quello valorizzando delle materie prime che vengono dalla nostra azienda agricola, quindi dei fichi, cipolle, prodotte dalla Popilia Agricoltura. Abbiamo un piccolo allevamento di suino nero calabrese e da lì è nata l'anduia di Spilinga, che è un altro prodotto tipico. Altra carta di identità dell'azienda è l'impegno sociale di Callipo Group. Nel 2005 la Giacinto Callipo Conserve Alimentari S.p.A. è stata inserita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all'interno del progetto Corporate Social Responsibility, progetti sostenuti dall'azienda a favore di associazioni non profit per la ricerca scientifica come AIL, Teleton, 30 ore per la vita e borse di studio per corsi di laurea, dottorati di ricerca e master. Ma anche iniziative con Libera e Save the Children, per trasmettere i valori della legalità in una terra spesso martoriata che la famiglia, come spiega Giacinto Callipo, non ha nessuna intenzione di lasciare. E il legame con la terra non è uno slogan. Mio padre è il paladino della lotta alla mafia, e alla mafia con la penna, cioè alla burocrazia, per come l'ha definita lui. Ma non ci scoraggia, continuiamo a lavorare in Calabria. Io resto a Pizzo. Dalla storia di una grande azienda, Callipo, che fa della responsabilità sociale una bandiera della qualità, alla storia di una piccola media impresa della moda e dell'abbigliamento di lusso per bambini, Quis Quis, nata nell'arte e cresciuta facendo beneficenza per i più piccoli e indifesi, dai bambini malati di AIDS a quelli del Marocco, della Tunisia, della Romania e a tutti i piccoli che sono coinvolti nel mondo della comunicazione con la protezione dell'Osservatorio dei Minori. Stefano Cavalleri racconta come ha realizzato il suo sogno, dai tulle ai tessuti pregiati, alle emergenze dell'infanzia. una visita a Pompei, mio figlio che faceva il classico, e mi legge Quis Quis Amavi Valiat su questo muro e dice: papà, Quis Quis è un nome bellissimo. E da lì è nato Quis Quis, che Quis Quis vuol dire stia bene chi ama. Quindi io, che sono uno sempre positivo e che parlo sempre d'amore, stia bene chi ama Quis Quis, ed è rimasto, è diventato il mio logo, il mio nuovo brand si chiama così. Il brand è però un nome che suona anche per i bambini, perché è legato all'abbigliamento dei bambini, non solo è latino e quindi ha un'importanza, ma è anche piacevole per un bimbo. Sì, molto piacevole, anche perché proprio la ripetizione Quis Quis diventa quasi un gioco. L'idea è stata quella di iniziare tutta una serie, insomma, di vestiti per bambini, ma di che tipo? Cosciente che ormai non c'è più nulla da inventare, che è stato tutto fatto e c'è tantissima, tantissima offerta, io continuo a regalare i sogni. La bellezza e l'arte vi hanno aiutato, vi hanno fatto fare la svolta. Voi da chi siete stati aiutati? Quis Quis è una mia avventura, ho un partner che è Andrea Montelpare, che è il partner delle scarpe. Ultimamente insegnavo in scuole di moda, e quando questi ragazzi terminano la scuola di moda spesso catturo i più talentuosi e ho un gruppo di 3 ragazzi giovanissimi che lavorano con me. Il V poi sta anche ai miei partner, sia i licenziatari che ho avuto che mi seguono. Direi che un campionario costa nell'ordine di 100.000 euro, poi se ne spendono altri 60 per fare un pitti e altri 20 per fare una bella sfilata, 20-30, ecco, diciamo l'ordine è questo. Queste buone azioni come appunto la Fondazione Parada, l'aiuto a Bucarest, i bambini che ricevono i libri pubblicati dall'UNICEF, le mostre d'arte, ecco, entrano nel modello di business, ma come fa un'azienda come la vostra a essere così generosa? È quello che si chiede anche l'uomo di strada, come fate a fare del bene e a fare fatturato? È abbastanza naturale riuscire a guadagnare vestendo i bambini più ricchi per aiutare i bambini più poveri, cioè diciamo, i bambini più felici per aiutare quelli meno felici. Questa e altre storie, idee e curiosità d'impresa anche in anteprima potete trovarle sul sito di Radio 24, www.radio24.it, sulla pagina programma di Voci d'Impresa, curiosando nella sezione Extra, dove potete scriverci i vostri messaggi e le vostre storie. Voci di Piccole Imprese su Twitter con l'account @vocipmiradio24, su Facebook alla pagina Voci di Piccola Impresa, il blog e il download sono sempre su www.radio24.it. Un saluto da Anna Marino. Avete ascoltato Voci d'Impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.